precipito. Guarda che velocità, io sto cadendo. Precipito. Guarda come brillo mentre scendo, mentre scendo giù come un fulmine a ciel sereno. Sereno sarai se non sarà sereno, tanto meglio, che è più spettacolare e coreografica se ti schianti. La furia degli elementi. Precipito. E guarda come sono telegenico mentre mi schianto. Precipito. Un sorriso ai fotografi e poi giù a pugni chiusi nel vento. Giù come Icaro. Giù come una meteora, giù come forse sei tu quando viene la sera. Giù, sempre più veloce giù. Cado, mi avvicino al suolo, mi sento sempre meno solo e sempre più libero di cadere giù. Precipitare, e lo so che sto per farmi male, ma guarda come sono magnifico ora mentre precipito. E guarda come brillo mentre scendo. Precipito incandescente come una cometa, risplendo. Precipito come Icaro, come una meteora. Precipito come un fulmine, come una cometa. Cado dalle nuvole, dal cielo, senza future questa volta, per davvero. Precipito, ammira il mio stile mentre sto scendendo. Precipito, e guarda che precisione, la mia rotta di collisione con il mondo, con il mondo.